stato il caso editoriale del 2008. Il suo primo romanzo è diventato un mega seller con oltre 2 milioni di copie vendute in Italia. Ha vinto premio Strega e Campiello Opera Prima. Parliamo di Paolo Giordano, autore della Solitudine dei numeri primi. Oggi esce il suo attesissimo secondo romanzo. Un romanzo bello che attesta Giordano come scrittore e non come meteora. Apparentemente un romanzo molto diverso dal primo, anche se ci sono punti di contatto. Se il primo aveva un incipit travolgente, questo può essere definito un diesel. Parte lentamente e coinvolge il lettore in un crescendo. È ambientato in una base militare italiana in Afghanistan. Si segue la vita di diversi personaggi: Egitto, René, Cederna e Ietri, il loro impatto con la guerra e le emozioni più intime. Come nella Solitudine dei numeri primi, anche qui le pagine più intense sono quelle in cui l'autore indaga i sentimenti più profondi, magari contraddittori, dei personaggi. Anche qui c'è il racconto del legame intensissimo fra un fratello soldato e una sorella. E sulla copertina compaiono un fratello e una sorella veri. Lei è la stessa della copertina del primo romanzo, lui, suo fratello, realmente soldato. Ma come Paolo Giordano sta vivendo l'uscita del secondo libro? Sentiamolo nella prima intervista radiofonica che ha rilasciato. Credo che la sfida grossa fosse quella davvero con me stesso, di riuscire infine a sentirmi legittimato a stare dove gli eventi mi avevano posto. E questo l'ho fatto. Credo che tra 10 anni o tra 20 anni guarderò il mio percorso e sarà la solitudine l'anomalia nel percorso. L'anomalia bellissima ma anche irripetibile, mentre io sarò andato a scavarmi il mio giusto spazio in questo mercato, in questo mondo editoriale. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.